Summertime di Elisabetta Fiorito. Genio, voglio essere ancora più intelligente, ancora più colto e però voglio diventare anche intuitivo. Fatto, nessun problema. Però poi non lamentarti quando ti verranno le mestruazioni. Buongiorno a questa nuova puntata di Summertime, soprattutto perché quello che abbiamo sentito è Lella Costa, beh, insomma, la nostra voce, la nostra coscienza femminile di questi ultimi anni. Lella Costa, benvenuta a Summertime. Eccoci, io vi sento un po' lontani, se devo dire tutta la verità. E allora noi alziamo il volume. Va meglio. Perfetto. Allora, questa sera alla Milanesiana, sì? I paradossi delle passioni. Quali sono oggi i paradossi delle passioni? Beh, in realtà io mi sono concesso il paradosso di andare lievemente fuori tema e di... parlare dei paradossi collegati ad una mia specifica passione, che è il mio mestiere, perché rispetto a finzione, realtà, falsità, verità, l'attore che si commuove recitando e allora è vero, è finto, è falso, è un paradosso, il paradosso dell'attore di Diderot, insomma l'ho giocata sulle cose che conosco meglio e che hanno anche più pertinenza con la mia presenza lì questa sera, insomma, perché appunto credo che sia buona cosa parlare di ciò che si conosce e di ciò che ci è vicino. Ma in questo mondo c'è ancora spazio per le passioni, Lella Costa? Ma io penso che questo mondo sia, che non tutte le passioni che alimentano questo mondo siano sane, ma forse passione e sanità mentale è un ossimoro, forse non possono coesistere, non possono convivere, però esistono delle passioni civili, delle passioni intellettuali, delle passioni direi anche professionali, e credo che siano per quelle che il mondo lo manderà avanti. Appunto, intendevo dire, c'è una differenza tra poi passioni e ossessioni, no? Assolutamente, certo. Io vedrei la passione... L'ossessione non ha niente a che vedere con la passione, siamo dalle parti della patologia, così come molto spesso noi ragazze scambiamo per innamoramento ciò che è pura nevrosi, cioè ci viene, già sai, mi batte forte il cuore, o è una cardiopatia congenita o probabilmente è un eccesso di tensione nervosa, insomma non ha veramente a che fare con l'amore, no? Ecco, proprio questo che mi interessa, perché una delle sue caratteristiche è proprio quello di vedere e visionare un po' il mondo femminile. Certo. Ecco, c'è una discrepanza tra le donne che vogliono comunque innamorarsi ancora, eccetera, e gli uomini invece che sono sempre un po' più isolati nel loro piccolo mondo in questo momento. Ma secondo me, più che isolati, si tratta di una forma di analfabetismo sentimentale, lo dico senza nessuna offesa, ma gli uomini sono degli analfabeti sentimentali. Quelli che si sforzano di cambiare, poi ci riescono anche bene. Il nostro problema, il problema delle ragazze, è la contraddizione fortissima che viviamo tra l'affermare, come facciamo, e facciamo anche in buona fede, che in realtà noi vogliamo avere accanto un compagno che sia innanzitutto dolce, sensibile, intelligente, attento a noi, che sappia capirci, e poi ci innamoriamo dei disgraziati, quindi fa che noi dovremmo farci la pace con questa contraddittorietà dell'innamoramento che, come ben sappiamo, non solo è cieco, è anche sordo, è dotato di gravi turbe a livello neurologico ed è stupido, cioè l'amore capita, non c'è progetto, ti capita, ti innamori di gente che non ti è neanche simpatica, come si fa? Bisogna farsene una ragione e cercare di non smettere di farsene una passione, credo. Ah, ecco, no, questo lo diceva pure Brecht, no? Nell'opera da tre soldi, diceva appunto attenzione, poi arriva il signorotto ricco, bellissimo, preciso, eccetera, ma per quello non persi la testa, e persi esatto. La testa per quello che non aveva una lira, era un po' trasandato, è così. Siamo così, dolcemente complicate. E allora, questa sera invece si punta più sulla passione civile oppure... Io ho puntato sul paradosso della mia passione, cioè del mio mestiere, il paradosso appunto del mestiere di recitare, quindi legato alla finzione. Gli altri immagino che esploreranno altri territori e ci incanteranno con altri punti di vista. La bellezza di una manifestazione come la Milanesiana è proprio questo, che hai 15 giorni, non so più quanti sono, in cui ti immergi completamente in un turbine di spunti, di stimoli, di sollecitazioni, di punti di vista, di dubbi, ed è straordinario. E tra le passioni di Lella Costa c'è pure però quella della cucina. Beh, insomma, adesso la passione per la cucina, diciamo che Beh, no, non proprio una passione così, così sviscerata. Mi piace mangiare, no, non mi dispiace cucinare quando il tempo e la tranquillità per farlo, però... No, perché io mi ricordo anche, mi sembra su Sky, che c'era stata una trasmissione in cui ha partecipato Chef per un giorno, era molto divertente. Avevo anche preso 4 cappelli da cuoco, insomma, mi ero piazzata onorevolmente, questo sì, però fa parte più che altro del gusto per la convivialità, per la condivisione delle cose, che sì, però insomma dire che ho proprio la passione per la cucina mi sembra di fare offesa a chi ce l'ha veramente e soprattutto riesce a praticarla veramente. Io mi ricordo questo menù che era molto molto particolare, sulla sette. Mi ero consultata con una mia amica straordinaria chef e appunto donna, che mi aveva dato delle dritte memorabili. Ed era sulla 7, mi fanno cenno, non era su Sky, mi scuso con i telespettatori. Allora ricordiamo, I paradossi delle passioni, un reading di Lella Costa questa sera al Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro, ore 21 ovviamente Milano, nell'ambito della Milanesiana. Per ascoltare che cosa vuol dire recitare, che cosa vuol dire avere questa passione, grazie infinite, è sempre un piacere parlare con lei, soprattutto poi riguardo alle donne. Grazie a voi e un abbraccio collettivo e buona serata. Tu ti ricordi, papà, ti ricordi quando io ho lavorato lì dentro, nel deposito nucleare, che fui assunto, operato, addetto alle pulizie, scupavo con te. Dentro il deposito, ricordo papà, e mio padre, come che non mi ricordo, amico, andai a piangere da un senatore per farti assumere a faticare come scopatore dentro il deposito nucleare, e là rimanevi a faticare, se non ti intrufolavi da cazzi che non erano i tuoi. Papà, noi volevamo solo la sicurezza, noi chiedevamo la sicurezza, papà. Quando noi dicevamo ai dirigenti dell'ENEA, vedete che siamo preoccupati, siamo costretti a scopare vicino a 2-3 tonnellate di rifiuto, sai che ci dicevano papà, i dirigenti dell'ENEA? Ci dicevano, ma che cazzo vi lamentate che a Saluggia, vicino Vercelli, ce ne sono 20 di tonnellate di rifiuto liquido radioattivo, 20 tonnellate, e l'altra in 2 cisterne scadute da 20 anni. E quello che sentite è un testo di Ulrico Pesce, uno degli autori teatrali di denuncia del nostro teatro italiano, Storie di scorie, in programma per il 15 luglio al Festival Teatrale del Pigneto a Roma, che si apre oggi, sì, proprio nel quartiere popolare, oramai diventato una sorta di piccolo Greenwich Village di Roma. Si apre questa sera il Festival proprio del Pigneto. D'Amico, moltissimi attori e autori in cartellone, giusto? Giustissimo, buongiorno a tutti intanto. Questa sera apriamo con Alessandro Benvenuti, uno spettacolo scritto e diretto e interpretato da lui stesso, che è me medesimo. A seguire ci sarà poi lo spettacolo di Yaya Forte. Molly Bloom, esatto. Che ricordiamo è la protagonista dell'Ulisse di Joyce, e questo famoso monologo di 50 pagine che chiude l'Ulisse di Joyce. Sì, e con la regia di Carlo Cecchi, anche questo ricordiamo. E Yaya Forte, un'attrice che poi è brillante, come fa a recitare una donna poliedrica come Molly Bloom? Beh, intanto è una bravissima attrice, quindi ha, come tutte le brave attrici, sia i toni leggeri che quelli, diciamo, drammatici, insomma, tragici. E poi lo spettacolo comunque ha una sua leggerezza, proprio per come è porto, e questo è stato uno dei motivi per cui l'abbiamo scelto, anche perché l'intento dell'intero festival è quello di essere un teatro popolare, nel senso a favore insomma, di facile lettura, che tutti, insomma, in modo che tutti ne possano usufruire senza doversi, diciamo, senza dover avere una preparazione specifica, ecco. Poi Yaya Forte recita Molly Bloom invece che in dublinese, in napoletano, esatto. Quindi è un po' particolare. Poi si prosegue, appunto, abbiamo sentito con il 14 luglio con altri Io di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Sì, con Antonio Rezza e un altro personaggio importante, insomma, della scena del teatro, insomma, nazionale. Il 15 luglio abbiamo sentito Storie di scorie di e con Ulrico Pesce. Noi lo amiamo questo autore, perché abbiamo anche sentito un testo di denuncia su Reggio Calabria che lui ha scritto, insomma è sempre un autore molto impegnato. Esatto, ed è già la seconda volta che partecipa al nostro festival, questa testimonianza del fatto che anche noi lo adoriamo. E poi un pesciolino di Pierpaolo Pasolini, sì. Il 16 luglio abbiamo, in principio era La Commedia a cura della compagnia Alice 2. Sì, ma soprattutto c'è anche in prima serata Canti Popolari delle Mondine, che è il nuovo spettacolo di Giovanna Marini con Francesca Breschi e Patrizia Nasini, che debutterà due giorni prima a Parigi e poi farà qui da noi il suo debutto nazionale. E abbiamo Massimo Popolizio, La memoria del cibo di Aldo Fabrizio. Ora, Massimo Popolizio è un attore molto teatrale, che calca i palcoscenici, molto serio, l'ultimo spettacolo Copenaghen all'Eliseo, eccetera, fa un testo di Aldo Fabrizi, quindi esatto. Un po' particolare. Esatto, è stato un accostamento che ci è piaciuto moltissimo, perché un po', diciamo, anche questa operazione qui, diciamo, in persona un po' il nostro spirito, quello di avere appunto una materia popolare fatta però con arte e con grande preparazione, insomma, con la qualità, insomma, dell'interprete. Quindi l'attore italiano forse più importante del momento di prosa, accostato ad Aldo Fabrizi e alle sue poesie, insomma, quelle sul cibo. A seguire, sempre il 17, c'è lo spettacolo Emoticon di Mario Civati col collettivo Attori Riuniti, che è uno spettacolo di giovani che hanno vinto la rassegna al Teatro Vittoria e saranno poi in cartellone l'anno prossimo al Teatro Vittoria. E concludiamo poi il 18 luglio con Ben Hur di Gianni Clementi, Nicola Pistoia e Paolo Tristino, Elisabetta De Vito. Allora, noi speriamo che questo Festival Teatrale del Pigneto, giunto alla terza edizione, ricordiamo che tutto quanto si svolge poi in un parco. Esatto, nel parco attiguo a Largo Pettazzoni di Tor Pignattara a Roma. Quindi, come poi questo Pigneto, questo piccolo Greenwich Village, mi piace definirlo così, è praticamente emergente rispetto al panorama romano, e speriamo di esportarlo anche nelle periferie delle altre città italiane. Questo ce lo auguriamo sempre. Comunque, è un'ultima precisazione: l'ingresso è tassativamente gratuito. Si inizia sempre alle 18:30 con del teatro per adulti e bambini, eccetera, tutto quanto. Gli spettacoli iniziano invece alle 21:15, due spettacoli insieme per il Festival Teatrale del Pigneto, Largo Pettazzoni, Tor Pignattara a Roma. Grazie a Martino D'Amico. Grazie a voi. Summertime. Sono Gertrude Damische, nata ad Amburgo il 27 maggio 1905. Mio padre si chiamava Fritz Damische, faceva il calzolaio e non ha mai preso la tessera del Partito Nazional Socialista. Io ho il diploma da infermiera e non ho fatto le scuole superiori perché sono stata assunta ancora tirocinante dall'ospedale di Stato Langeorn. Mi sono sposata a 18 anni con Hans Sambler, titolare di una ditta di costruzioni. Conobbi Ofelia Compalice a casa sua ad Amburgo nell'inverno del 1941. Era stata appena dimessa da una clinica privata della Baviera, una di quelle cliniche di lusso per pazienti molto ricchi, e c'era rimasta 8 mesi, cioè da quando a suo padre, il colonnello von Polish, era stato affidato un incarico di responsabilità nel governatorato centrale della Polonia occupata. Le ragioni del ricovero erano che la signorina von Polish soffriva, e a quel che ne so io soffre tuttora, di una forma di ritardo mentale. Più specificatamente, la sua età mentale è equivalente a quella di una bambina di 8-9 anni. E quello che sentiamo è un brano di Tiergartenstrasse, uno spettacolo prodotto dal Teatro Vittoria che questa sera è in scena a Genova nell'ambito del Festival In una notte d'estate, un festival che è praticamente fino al 7 agosto. Daniela Ardini è il direttore artistico. Buon pomeriggio, Daniela. Buon pomeriggio, grazie. Allora, un festival che si è aperto il 6 e che va in scena fino al 7, moltissimi gli spettacoli che si alternano, questa sera abbiamo sentito questo spettacolo, poi c'è Il malato immaginario e poi Nel mio perimetro di sole con Sergio Endrico, su Sergio Endrico, insomma tantissimi, A piedi nudi nel teatro addirittura. con Adriano Innocenti, che insomma un remake di A piedi nudi nel parco, immagino. No, è un, comunque prende lo spunto da quel titolo sicuramente. A Pianura del Teatro è un gesto di umiltà, un gesto di una grande signora del palcoscenico che ha affrontato 60 anni di teatro e quindi si può permettere di anche di essere un po' così di ironica nel suo percorso teatrale. Ricordiamo quando poi invece Robert Redford, giovanissimo, no? Passeggiava a piedi nudi nel parco, in Central Park a New York. E poi invece abbiamo anche uno spettacolo di Fabrizio De André, Bocca di Rose e altro storio, altre storie, un omaggio a Fabrizio De André. E insomma, tantissimi gli appuntamenti. L'appuntamento è sempre alle 21:15. Dove esattamente? A Genova, per dare in una piazza bellissima del centro storico di Genova, che ricordo essere il più grande d'Europa. È una piazza medievale che si chiama Piazza di San Matteo, prende ovviamente il nome dalla chiesa gentilizia dei Dori, oltretutto l'acquartieramento dei Dori a Genova. E poi però sul festival si muove anche, valorizza altri spazi cittadini, tutti di straordinaria suggestione. Per esempio oggi pomeriggio, perché abbiamo anche programmazione pomeridiana, siamo a Palazzo del Principe. Il principe è sempre Andrea Doria, che insomma è noto anche per essere stato un grande ammiraglio di Carlo V, insomma la personalità forse più eminente del Cinquecento genovese, che è il motivo per cui noi abbiamo sottotitolato il festival Percorsi della Storia, perché ci sono tanti appuntamenti dedicati alla storia. Insomma, lo spirito dell'antica Repubblica Marinara serpeggia sempre a Genova. Certo, continuiamo a omaggiare i nostri grandi padri. Beh, così deve essere, noi siamo orgogliosi. Allora, Piazza San Matteo, ricordiamo, l'appuntamento è sempre alle 21:15, fino al 7 agosto. Abbiamo semplicemente dato un accenno e ci risentiremo sicuramente nel corso di Summertime per altri appuntamenti. Ringraziamo quindi Daniela Ardini e ricordiamo lo spettacolo questa sera, Tiergartenstrasse. Grazie. Grazie. Nei panni di Gertrude, Serena Ottardo. E nei panni invece di Ofelia? Barbara Giordano. Una pièce a due, molto drammatica, molto intensa. Gertrude è praticamente una nazista, però un po' poi si convince che il nazismo tutto sommato va abbattuto. Sì, è più che altro un discorso personale per quello che penso io, per la mia personalissima Gertrude, insomma, è più un riscatto proprio personale di questa donna che a un certo punto ha anche voglia di diventare madre, quindi vede in Ofelia anche quello che non ha realizzato, quindi l'essere madre fondamentalmente. E vedova di guerra. Crisi, esatto, mette in crisi le sue certezze per poi rialzarle su, per poi rimetterle in crisi, insomma è abbastanza controverso come personaggio. Come personaggio, sì. Però non è un personaggio lineare. No, assolutamente no, lineare proprio no. E si ricrede sul nazismo. Sì, attraverso. Sul nazismo, esattamente, attraverso appunto questa ragazza, l'innocenza di questa ragazza. Ofelia, insomma, un po' difficile fare la parte di una ragazza con un ritardo mentale acuto, però con questa passione per i fiori e che lotta contro il male. Sì, lei in realtà non so quanto sia consapevole di niente, di tutto quello che noi vediamo da fuori. Lei gioca, si diverte fondamentalmente, ha tanta nostalgia della sua famiglia che l'ha abbandonata, di suo padre soprattutto, e nell'incontro con questa infermiera trova una realizzazione di famiglia, che è quello che vuole, e che quando le è negata ritrova nei suoi fiori, invece nelle sue creature, quelle che lei può essere anche lei mamma, no? di fiori, di Gunther, che è il vero protagonista di questo. No, in realtà è un giglio Gunther, no? Lei si occupa di botanica più che di... Una cosa fondamentale nei ricordi di Ofelia mi sembra che ci sia una madre molto fredda, no? Che la lasciava nella serra quando c'era il ricevimento, e magari il padre che poi si sentiva in colpa e l'andava a riprendere. Quindi in Gertrude vede quella madre che non ha avuto? Probabilmente sì, vede qualcuno che la fa giocare, che la adotta, con lei, con l'altra, la madre di cui parla l'Ofelia di dell'autore, che è Pietro Floridia, è una ragazza, è un'attrice la madre di lei, e quindi magari si vergognava di, no, davanti ai suoi amici di avere una figlia handicappata durante il Terzo Reich. Esatto, non era proprio il caso. Alla fine lei sente, cerca di sempre l'odore dei fiori malgrado ci sia la guerra. Sì, sono l'unica cosa che non può farle male, forse. Però nel finale c'è una cosa che possiamo dire, che a un certo punto Gertrude però deve pagare anche la sua appartenenza al partito nazista. Beh sì, sicuramente, poi la resa dei conti arriva, insomma, sicuramente, e infatti la porta anche a un crollo totale emotivo. E questo era Tiergartenstrasse, come abbiamo sentito, a Genova questa sera. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul sito www.radio24.it. Una buona serata a tutti da Elisabetta Fiorito.